ore 8 e 31 di mercoledì 2 febbraio 2005, mondo del podcasting in continua ebollizione, bisogna dire. È nato da poco un nuovo podcast dedicato alla musica colta, che invito tutti ad ascoltare perché è molto ben realizzato, anche con la partecipazione di musicisti di rilievo internazionale. Per quanto mi riguarda, proseguo in questa opera di proselitismo, anche a costo di sembrare una sorta di piccolo testimone di Geova della radio. Sto cercando di convincere alcuni broadcaster tradizionali ad adottare la tecnica del podcast. Devo dire, sforzi coronati finora da successo. Devo ringraziare a questo proposito Sylvain Giret, che è il valente direttore editoriale di Arte Radio, che ha accolto il mio appello e che tra l'altro è un nostro ascoltatore, anche perché capisce la nostra lingua. E sto cercando di fare altrettanto anche con la redazione di una trasmissione di France Culture, che è il canale culturale di Radio France. Il programma si chiama Toujours à l'endemain, è una delle mie trasmissioni preferite, e sto aspettando una risposta anche da loro, o meglio, mi hanno già risposto, e l'unica valutazione è ovviamente sul problema dei diritti, il che dimostra che l'approccio giusto è quello di contattare i responsabili delle singole trasmissioni piuttosto che degli interi palinsesti, che dell'intera programmazione, proprio perché in questo modo si riesce a valutare con più attenzione il problema del diritto d'autore. E nel compiere quest'opera, diciamo, di apostolato, sono un po' combattuto. Vivo una sorta di conflitto di interessi interiore perché da una parte scopro sempre più il grandissimo valore di tutto quello che viene pubblicato in podcast sulla rete italiana e internazionale, e quindi mi piacerebbe proteggerlo perché credo che la grande forza del podcast sia proprio il poter parlare in totale libertà, con la grande energia di chi non ha problemi di essere politically correct, non ha il problema di dire ciò che viene condiviso, ciò che viene apprezzato, non ha il problema dell'audience. Questo dà una straordinaria forza, io credo, a coloro i quali si sono messi a parlare davanti a un microfono, al di fuori da, diciamo così, dei tradizionali vincoli del mondo del broadcasting professionale. Poi però questa volontà di proteggere questo mondo ancora abbastanza carbonaro svanisce perché c'è un altro tipo di interesse, che è quello di riuscire ad avere in podcasting alcune grandi perle della programmazione commerciale o collegate alle radio pubbliche in particolare, come nel caso di France Culture. Sono cose che mi piacerebbe poter ascoltare, per esempio, in automobile, e non necessariamente come ho fatto finora via satellite.